Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, un'altra puntata di Focus Economia inizio. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo da un lato della manovra, perché oggi smentita di Palazzo Chigi su quanto presente oggi su alcuni giornali, poi l'OCSE, che è l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che rivede al rialzo la stima di crescita del PIL italiano. Non come ha fatto il governo, lo porta allo 0,7, dallo 0,6 il governo, per voce del Premier Renzi, ha detto 0,9. Ha ritoccato leggermente a ribasso invece quella del 2016, e quindi dall'1,5 all'1,3. Rallenta infatti la crescita globale dell'economia, sostiene l'OCSE, preoccupano i paesi emergenti. Per quest'anno la stima dell'aumento del PIL mondiale viene limata, cioè ridotta, al 3%, il prossimo anno al 3,6. Ne parleremo oggi, ma soprattutto parleremo da un lato appunto della manovra italiana, diverse smentite sull'ammontare del margine richiesto all'Europa. Renzi due giorni fa disse di fino a 17 miliardi, ma non li useremo tutti. Alcuni giornali oggi riportavano 7 miliardi. Palazzo Chigi ha parzialmente smentito. Ma parleremo anche di quanto avverrà domani sera negli Stati Uniti, la grande attesa che c'è per capire che cosa uscirà dalla riunione. In realtà inizia oggi il vertice, chiamiamolo così, della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, il FOMC, Federal Open Market Committee, perché tra oggi e domani, poi domani arriverà il comunicato, si saprà se l'America inizia a rialzare i tassi di interesse, con conseguenze che abbiamo già spiegato anche e soprattutto per i paesi emergenti. Per quello che riguarda l'Europa, si può attendere un ulteriore indebolimento del dollaro, ma poco altro. Indebolimento dell'euro e rafforzamento del dollaro, ma poco altro. Sarà importante capire anche, sia che li alzi, sia che non li alzi, il commento, diciamo così, che la Banca Centrale Americana darà alla sua decisione, la giustificazione, la motivazione che darà. E questo per quello che riguarda il tema soprattutto della seconda ora. In apertura, ma si lega molto anche alla manovra, oggi Sole 24 Ore in prima pagina cita giustamente l'ipotesi molto forte di una proroga per il rientro dei capitali dall'estero, la cosiddetta voluntary disclosure, cioè l'atto in cui tu diventi trasparente volontariamente prima di incorrere nelle sanzioni molto pesanti previste se tu non hai chiarito, reso trasparente la tua posizione sui capitali all'estero entro la data stabilita. Il nuovo termine verrebbe fissato dopo la scadenza originaria del prossimo 30 settembre, per ora infatti resta il 30 settembre. Tra l'altro questo allungamento viene anche chiesto dai commercialisti, che hanno 16.000 domande di regolarizzazione, di cui 7 su 10 sono ancora in attesa. Ricordo, ma ne parliamo adesso in apertura, che questo che la voluntary disclosure nasce come, diciamo, anche come frutto degli accordi di collaborazione fiscale sia con la Svizzera che con Liechtenstein e il Principato di Monaco. Tra l'altro dal 1 gennaio del 2018, con retroattività però a tutto il 2017, gli scambi di informazioni sui depositi all'estero negli ex paradisi fiscali avverranno in automatico. Retroattività vuol dire che poi anche le posizioni del 2017 sarebbero diventeranno sanzionabili. Anche di questo, dicevo, parleremo in apertura. Poi per quello che riguarda la giornata finanziaria, segnaliamo che c'è una borsa a Milano positiva di uno 0,60%, meglio fa Parigi più 1,60, peggio fa Francoforte più 0,30, Londra bene più 1,20, gli Stati Uniti più 0,45%, euro su dollaro a quota 1,1297, quasi 1,13. I titoli CNH Industrial più 3,45%, Mediaset più 2,70 come Saipem e Ferragamo, Jux più 2,5 come Moncler, Tenaris più 2,30, poi Campari guadagna l'1,90 come Telecom Italia ed Eni, l'1,70% è il rialzo di A2A e di Todds, fronte opposto, Popolare di Milano meno 2,90, Banco Popolare meno 2,60 come Monte dei Paschi, l'1,80 del calo di Ubibanca, l'1,30 quello della Popolare Emilia Romagna. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Le borse europee, che sono tutte positive, in realtà risentono solo parzialmente di quanto accaduto questa mattina in Asia. La borsa di Shanghai ha chiuso in rialzo del 4,90%, lo Shenzhen Composite in rialzo anche lui del 4,90%, poco prima della chiusura Shanghai era arrivata a guadagnare quasi il 6%, tutto guidato questo rimbalzo dai titoli tecnologici. Vista la volatilità dei mercati asiatici, è inutile commentare ulteriormente, non possiamo parlare certo di un segnale di inversione di tendenza. L'agenzia di rating Standard & Poor's nel frattempo ha tagliato il voto del debito del Giappone, portandolo da doppia A meno ad A più con prospettive stabili. Brutte notizie invece dagli Stati Uniti per i lavoratori della Hewlett Packard, che taglierà tra i 25.000 e i 30.000 posti di lavoro nell'ambito di una ristrutturazione che porterà a tagliare costi per 2 miliardi e 700 milioni di dollari. Nel frattempo la United Auto Workers, il sindacato, ne abbiamo parlato in questi giorni, molto potente dei lavoratori del settore automotive americano, e il gruppo Fiat Chrysler hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di lavoro. Lo ha annunciato nel corso della conferenza stampa Sergio Marchionne assieme al presidente del sindacato dell'automobile Dennis Williams. Il contratto riguarda 40.000 dipendenti, ha una durata di 4 anni, ma ripetiamolo ancora una volta, è particolarmente importante perché negli Stati Uniti è consentito trattare con un gruppo, in questo caso sono tre, ripetiamo ogni volta, Fiat Chrysler, General Motors e Ford, tratti con un gruppo e quell'accordo poi ha il valore di paradigma e di riferimento anche per gli accordi con gli altri gruppi, come l'accordo sindacale. Alcuni mi chiedono: ma quali sono le previsioni degli analisti sulla Banca Centrale Americana, sulla Federal Reserve? Sono spaccate esattamente a metà, se così vogliamo dire. Il 49% prevede che vi sarà un aumento dei tassi già in questo mese, il 43% ritiene che non lo farà. Tra l'altro è arrivata due giorni fa così l'avvertimento della Banca Mondiale, che ha detto: attenzione, un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed rischia di creare turbolenze sui mercati finanziari, in particolar modo dei paesi emergenti. E oggi è intervenuto anche l'amministratore delegato di Goldman Sachs, il mitico Lloyd Blankfein. È una vita che lì è passato immune a tutti gli scandali delle banche d'affari americane del 2008. Ha detto: attenzione, i dati non sembrano sostenere un aumento dei tassi di interesse, e ha sottolineato che invece l'aumento dovrebbe essere guidato proprio da dati che in questo momento non sostengono un aumento dei tassi. Ora, negli Stati Uniti, tra l'altro, si va, come voi sapete, verso le primarie per quello che riguarda i repubblicani, e le possibilità che Donald Trump vinca la nomination repubblicana spaventa, secondo quanto riportano le agenzie, sempre più Wall Street, che assiste, non dico esterrefatta, ma insomma sorpresa, alla crescita nei sondaggi del magnate newyorkese mattone Donald Trump. Secondo l'ultima proiezione di Washington Post e ABC News, Trump è al 33% delle preferenze, mentre candidati che la finanza, uno può dire chi se ne frega di quello che apprezza la finanza, oppure dire che proprio perché lo apprezza la finanza non è un buon candidato, ma Wall Street guarderebbe con favore a Jeb Bush, il fratello di Bush, e lontanissimo però dalla vetta, il gradimento è ai minimi, l'8%. Proprio su questi sondaggi e anche alla luce delle primarie del Partito Repubblicano si concentrano su questi sondaggi, dicevo, i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Platerotti. Il modello di Donald Trump, l'ha detto lui stesso in un'intervista al Sole 24 Ore, è Silvio Berlusconi, ma al contrario di Silvio Berlusconi, che all'inizio della sua carriera ha avuto una delle più grandi spinte dagli imprenditori e dalla comunità finanziaria, non è affatto amato da Wall Street e dagli imprenditori americani. Il suo modo di fare, il suo populismo, le tesi molto rigide sull'immigrazione, sulle tasse, sui maggiori controlli sulle banche e sui fondi di investimento di Wall Street gli hanno infatti procurato tanti nemici nella comunità finanziaria di New York, che addirittura con un gruppo di pressione chiamato Alleanza per la Crescita ha già raccolto $1 milione per lanciare una campagna di stampa negativa contro Trump. Ma che cosa c'è che non va? Che Trump non è certamente nel DNA di Wall Street, pur avendo accumulato una ricchezza investendo in borsa e speculando dai casinò al settore immobiliare. Donald, il miliardario, si è creato tante inimicizie quando è andato in televisione a dire che da presidente la prima cosa che avrebbe fatto è dare una grande stretta sia sui controlli ma soprattutto sugli stipendi dei grandi manager americani. Una cosa inaccettabile in questo momento in un'America che sta guardando avanti e che sta soprattutto ritornando a crescere, sia per quanto riguarda i profitti aziendali che per quanto riguarda l'economia. Come finirà? Difficile dirlo. Certamente Wall Street, che è stato uno dei grandi canali di finanziamento dei candidati dati alla presidenza della Repubblica Americana, dirà la sua, e questo conterà nelle urne. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ultimo tema prima di passare alla volontaria disclosure, che ripeto, quindi a rientro dei capitali, si lega anche alla manovra finanziaria. Allora, per quello che riguarda il tema, ahimè, la tragedia non è un tema, dei migranti, già i nostri GR24 vi hanno raccontato che cosa è successo, la cronaca in evoluzione ora per ora, 316 migranti arrestati in Ungheria, gli scontri al confine. Tra l'altro Angela Merkel ha detto che quella di aprire le porte della Germania in una situazione di emergenza è stata una decisione giusta e abbiamo aiutato molta gente. Angela Merkel ha difeso in maniera energica la scelta fatta 10 giorni fa, era una situazione di emergenza, si doveva decidere, non potevamo aspettare, e ha detto: non accetto i rimproveri fatti alla Germania per un gesto amichevole. Questo è intervenuto anche oggi il presidente Confindustria Squinzi, il quale ha detto: in questo momento non è l'immigrazione che può risolvere i nostri problemi, abbiamo bisogno innanzitutto di ridare lavoro agli italiani. E Squinzi poi ha anche commentato le stime sulla crescita del governo, una crescita dello 0,9% nel 2015, sono dati statistici, sono per forza credibili. Poi possiamo discutere se ci basta una crescita dell'1%, ha aggiunto Squinzi. I prossimi mesi sono previsti positivi, ma il punto è se ci bastano 0,9%. E poi il ministro Padoan, al di là dei dati OCSE, che ha detto stiamo valutando come ottenere margini di flessibilità per riforme e soprattutto per la clausola degli investimenti, via la TASI nella prima casa anche per chi è in affitto, e non vi saranno modifiche strutturali alla riforma Fornero, comporterebbero oneri rilevanti e strutturali. Sugli esodati, il governo sta valutando la possibilità di mettere in campo un nuovo provvedimento di salvaguardia degli esodati, ma ha avvertito il ministro Padoan: non ci sono certezze sui risparmi del fondo e che comunque è necessaria un'esplicita disposizione normativa per utilizzarli. Poi Padoan ha fatto anche il calcolo delle 6 salvaguardie degli esodati, di quelli che ricordo sono rimasti nel guado, tra coloro che sono sospesi nel momento del varo della legge Fornero, senza lavoro e senza la possibilità di andare in pensione. Senza lavoro, perché alcuni mi chiedono: ma perché senza lavoro? Perché avevano accettato lo scivolo, come si chiama in gergo, il prepensionamento, e poi si sono trovati con un'asticella che si era improvvisamente alzata. Allora, il ministro Padoan ha detto che a luglio erano state accolte 114.000 certificazioni su un limite di salvaguardia di 170.000 e ha aggiunto che il governo intende trovare una soluzione alle situazioni di disagio con la dovuta urgenza, ma nulla di più. E l'INPS ha fatto sapere di aver accolto quasi 116.000 certificazioni di salvaguardia e di aver liquidato 83.000 pensioni con le regole precedenti la riforma Fornero. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, il primo tema, visto che oggi appunto il Sole 24 Ore ci puntava la prima pagina e riguarda, ripeto, quello che poi sarà l'impianto complessivo della manovra, il tema del rientro dei capitali, da scadenza che fino a prima dell'estate sembrava una scadenza scritta sulla pietra, sui due tavole della legge, era e resta per ora il 30 settembre, dopodiché scattano sanzioni pesanti, anche pesantissime, e ricordo che nel 2018, dal 1 gennaio, le informazioni con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco saranno automatiche e saranno retroattive, quindi riguarderanno anche le posizioni, i conti correnti del 2017. Dicevo, era scritta sulla pietra, ma sappiamo che c'è pietra e pietra, c'è il granito e c'è anche il tufo. Perché dico il tuffo? Perché il governo sta pensando di allungare i tempi un po' per far cassa ulteriore. Però, e qui giro la domanda giusto perché se non sembra che sia solo per far cassa, che per carità il governo con la manovra che ha in mente ha bisogno, ma c'è una richiesta che arriva anche dal mondo dei commercialisti. Alessandro Garimberti del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Cioè, sono due motivi, è ovvio che c'è il motivo di dare più tempo per vedere se c'è qualche ravvedimento, non si chiamava ravvedimento? Sì, è una forma di ravvedimento operoso, sì, esattamente. Qualche ravvedimento operoso in più e un po' di cassa in più, però c'è anche la richiesta dei commercialisti. Allora, ricordiamo che cosa prevede, perché tuttora non è cambiato nulla, la voluntary disclosure e anche in tema di sanzioni. La voluntary disclosure, che prevede che non ci saranno sanzioni penali per chi va a svelarsi al fisco per quello che ha detenuto all'estero in mancanza di, senza averlo dichiarato nel modello unico, e prevede una serie di sconti sulle sanzioni amministrative. Il problema è che questa vicenda è nata in modo conflittuale e in modo difficile a inizio anno, e si è arrivati, come era ampiamente previsto e avevamo più volte scritto, in prossimità della chiusura del 30 settembre, con una serie di problemi che sono stati risolti solo pochi giorni fa. Il tema principale è vero, il governo si attende un gettito e un'emersione molto consistente, dati che fino ad oggi non sono stati raggiunti. All'estero ci sono almeno 200 miliardi da far emergere, secondo stime molto prudenziali. A giovedì scorso le voluntary disclosure depositate, circa 16.000 domande, non vanno oltre i 18-19 miliardi. Ci chiediamo perché è successo questo. Il tema fondamentale è che quante annualità vengono coperte da questa specie di perdonismo. In realtà si pagano sanzioni minime, si pagano le tasse perché si devono pagare, ma c'è un fortissimo sconto. Il problema è quanto andiamo indietro. Allora, la partita per chi ha veramente grosso interesse all'estero era mantenerlo al minimo della legge fiscale, cioè i 5 anni. Ma c'erano alcuni problemi. Per i paesi blacklist, c'era quelli con poca trasparenza, c'era il raddoppio di termini, e quello è stato scardinato con una serie di accordi con la Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco. Rimaneva un altro problema: se si scopre un reato fiscale vero o qualcosa di rilevanza penale, c'era il raddoppio dei termini. Qua è stata una disputa che ha impegnato per mesi le categorie, il Parlamento, l'esecutivo. È stata risolta con il decreto sulla certezza del diritto. Sembrava tutto risolto il 2 settembre e quindi con 28 giorni soli che mancavano potevano partire il rientro dei grandi patrimoni, quelli dai 10 ai 300-400 milioni singolarmente presi, che finora non sono partiti perché l'aggiunta di 1, 2, 3, 4, 5 anni indietro, tra l'altro in anni molto buoni per la finanza, diciamo così, estera, cioè il 2009 e il 2008, quando stavano partendo tutte queste cose, l'Agenzia delle Entrate l'altro ieri emette un proprio comunicato, un provvedimento in cui dice: anche se è perdonato dalla legge, dal decreto di certezza del diritto, il reato eventualmente commesso prima, il contribuente deve indicarlo, rivolto ai commercialisti. Perché? Perché 16.000 pratiche comunque di taglio medio-piccolo erano già chiuse e quindi bisognava acquisire documentazione dagli intermediari esteri e dalle banche per altri 2 anni, con i 28 giorni che rimangono, pochissimi giorni che rimangono per fare queste cose. E secondo luogo, tornare indietro ancora di 2 anni sull'accertamento voleva dire di tirare un'altra doccia gelata sui grossi investitori. Allora, qual è il punto di vista sui grossi rimpatrianti che sono ancora lì in attesa e che non hanno ancora depositato? Il tema è: il governo vuole gettito, finora ne è arrivato pochissimo ed è emerso pochissimo. La voluntary disclosure adesso è più attraente, perché poi ieri l'Agenzia delle Entrate, costretta dall'esecutivo, ha fatto una drammatica per lei retromarcia, dicendo: no, abbiamo scherzato, non chiederemo più altre 2 annualità, retrocedendo altre 2 annualità. Se vuole il contribuente ce le porterà, però va bene così, ne prendiamo solo 5. Cosa è successo? Che il governo ora si attende molti soldi, non sono arrivati. La finestra chiude il 30 settembre e bisogna fare una proroga. Allora, il primo passo è stato fatto con una proroga amministrativa decisa con varie scamotage dall'Agenzia delle Entrate. La novità vera è che il governo si appresta ora a fare un decreto per riaprire i termini della presentazione delle domande. Allora, andando con ordine, tu hai chiarito bene che da un lato c'è il problema di quanto indietro devi andare. Devi andare indietro per i 5 anni, che sono quelli su cui il fisco ti può perseguire, e quindi in quel caso ti mettevi al riparo per i 5 anni, o devi andare indietro ancora più a lungo, dove chiaramente per chi ha esportato i capitali all'estero illegalmente, perché di questo stiamo parlando, era meglio i 5 anni, nel senso che tu lì ti fermi e non vai a sapere cosa è successo prima. Poi c'è il tema appunto della certezza del diritto, e quindi io devo sono assolto completamente, cioè ho una specie di scudo, qui vengo anche al tema dello scudo fiscale, oppure no, o invece devo comunque denunciare il reato. E su questo io però personalmente non ho capito, alla fine, con tutto questo giro di circolari, l'Agenzia delle Entrate ha fatto marcia indietro? Il tema è: se tu hai commesso un reato in quei 5 anni lì, sono problemi grossi, perché se hai commesso un reato di intervenire alla Procura della Repubblica, cambiano i termini di prescrizione e andiamo indietro. Il tema era: se hai commesso un reato nel 6° e nel 7° anno precedente, cosa succede? Si riteneva che il caso era risolto col decreto certezza del diritto. Se l'hai commesso nel 6° e nel 7° fa nulla, ok, te lo perdoniamo. L'Agenzia delle Entrate invece interviene sulla base di questa legge, interviene in TECL e dice: no, mi porti ugualmente la dichiarazione che hai commesso un reato in quegli anni che non sono più accertabili fiscalmente. E quindi è da qui che è nato la grandissima conflittualità. Poi l'Agenzia delle Entrate ieri ha dovuto fare una rovinosa retromarcia su spinta dell'esecutivo. Allora, quindi ci sono motivi. Allora, mettiamola così, se dovessi dare una sintesi, un titolo: il governo punta, perché ci punta nella manovra finanziaria, a incassare il più possibile dalla voluntary disclosure. In questo momento sta incassando pochissimo, per un insieme di motivi, 2 principalmente: l'incertezza sui 5 anni, oppure si va più indietro, adesso chiarita, e l'incertezza su devo denunciare o meno il reato se commesso prima di quei 5 anni. E da questo punto di vista, però, tutto questo si è chiarito a inizio settembre, ovvio che i commercialisti non ce la fanno e mancano, come tu facevi giustamente notare, all'appello i grandi capitali. Allora, 2 o 3 domandine ti chiedo di rispondere dopo il meteo e la pubblicità, perché molti ascoltatori ci dicono: ma scusatemi, ma che differenza c'è tra questo e lo scudo fiscale di Tremonti, che a suo tempo fu criticato perché chiedeva solo il 5%, poi chiese 7,5, cioè 2,5, 5... L'ultimo anno l'8, il quarto anno arriva all'8,5%. Seconda domanda che molti ascoltatori fanno al 349-238-6666: ma se lo scudo fiscale di Tremonti aveva l'obiettivo di chiarire tutti i capitali all'estero, e ricordo che una tranche fu di 100 miliardi, quella più imponente, non mi ricordo la somma complessiva, come mai ci sono ancora 200 miliardi di capitali non dichiarati? Vuol dire che è stato un fallimento perfino farli rientrare col 5%? E a quel punto chi ci assicura che se quei 200 miliardi non sono rientrati con Tremonti col 5%, rientreranno adesso con la volontaria disclosure? Lì forse c'è il tema delle sanzioni se tu non aderisci. Però vorrei le risposte dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Da 7:39 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, da questo punto di vista, le critiche, io le devo leggere tutte, che arrivano, Alessandro Galimberti, o le osservazioni che arrivano, ripeto, sono due. Come fanno ad esserci ancora 200, almeno 200 miliardi di capitali illegalmente? Non stiamo parlando di chi ha voluto aprire un conto corrente in Svizzera, in Liechtenstein, legalmente, illegalmente detenuti all'estero. Visto che c'era stato lo scudo fiscale che aveva buttato più di 100 miliardi di euro, e dall'altro che differenza c'è rispetto allo scudo fiscale, che prevede anche l'ulteriore domanda: se non ha funzionato quello che prevedeva il 5% e l'anonimato, perché dovrebbe funzionare questo, Alessandro? Allora, risposta numero uno: perché ce ne sono ancora 230 miliardi? Sono stime molto prudenziali e probabilmente sono multipli quelli realmente transitati, usciti dall'Italia. Cioè, vuoi dire che sono il doppio, il triplo? Secondo stime ufficiose, sì, almeno. Perché poi partono dai paradisi fiscali ex sicuri, la Svizzera, l'Austria, San Marino, eccetera, tutti ex paradisi, ma poi da lì si sono irraggiati in mezzo mondo. C'è stata proprio anche un'attività di transito. Poi è strettamente... Devo dire anche un'attività di consulenza di alcune banche di quei paesi, spingendo i clienti, anche professionisti, c'è stato sicuramente spostati un'epoca, spostati a Hong Kong, spostati alle Cayman, vabbè, comunque epoca comunque è finita anche per lo scambio automatico di cui parlavi prima, è proprio, siamo proprio a un cambio di scenario internazionale. Poi il problema dello scudo è strettamente intrecciato. Allora bisogna chiarire che lo scudo era one shot, era anonimo ed era un colpo solo, una dichiarazione anonima che veniva fatta da un titolare di conti, eccetera, che poteva decidere che cosa svelare, quanto svelare, secondo sua convenienza. Molte volte, quindi, molto diverso da oggi, dove la voluntary disclosure richiede per legge, a pena di sanzioni penali pesantissime, una, primo, dichiararsi nome e cognome, secondo, obbligato a dire tutto, e oggi conviene perché con lo scenario internazionale di scambio automatico domani ti diranno: tu hai fatto la voluntary, cioè hai nascosto delle cose, revochiamo i benefici e ti poniamo due volte per autoriciclaggio, per falsa mendace dichiarazione, per evasione fiscale. Quindi questa diversa struttura implica una cosa, che mentre lo scudo è stato un colpo solo al 5%, ma spesso la storia insegna che l'80% dei capitali non era rimpatriato, no, ha fatto solo un transito giuridico verso l'Italia, e anche quello che è rientrato, anche quello che era fuori, è stato generalmente reimpiegato una volta dato questa sverniciatura. La differenza con la voluntary è che oggi paghi le sanzioni, le tasse arretrate, ma da domani continuerai a pagare le tasse sui rendimenti finanziari dell'attività. Diventa parte del tuo patrimonio. È parte del tuo patrimonio svelato, quindi è molto diverso scegliere di fare uno scudo anonimo. Beh, e in questo senso, fare una resa. Con buona pace l'ex ministro Tremonti, è più corretta questa, nel senso che tu, lo Stato ti dà la possibilità di non incorrere nelle sanzioni che adesso tu ci ricorderai, per un atto illegale, perché qui non stiamo dicendo, è un atto illegale portare i capitali all'estero, abbiate pazienza, qualcuno mi scrive cose un po' strampalate. Uno ti dice io ti metto a regola per i 5 anni in cui sei sanzionabile, però poi questo diventa parte del tuo patrimonio, non è una tantum come fu lo scudo fiscale al 5% e poi buona lì. E infatti tu ci stai dicendo che in alcuni casi i capitali sono tornati all'estero, nella maggior parte non sono mai rientrati pur essendo stati svelati. Dice lo Stato: questo resta parte del tuo patrimonio, quindi quello che paghi per i 5 anni precedenti poi continuerai a pagarlo, a meno che tu non mi dimostri che questo capitale non ce l'hai più, che te lo sei bruciato, che per altri motivi. Ma insomma, il fatto che però ci sia tutta questa resistenza, io posso capire in maniera così, diciamo, tentativo di empatia, chi ha decine di milioni o anche milioni all'estero dice: mi tocca pagare per i 5 anni e adesso questi milioni poi diventeranno parte del mio patrimonio, quindi domani, cioè già dalla prossima dichiarazione devo metterli in dichiarazione. Però quello che non capisco è se le sanzioni sono così pesanti, che quale sia la convenienza. Allora ricordoci, le sanzioni, ce lo chiedono anche molti ascoltatori, dicono: forse perché sanno che in Italia poi queste sanzioni non verranno applicate. Attenzione, quelle fiscali sono pesantissime in Italia, solo che raramente vengono applicate fino in fondo. Finita la finestra della voluntary, con tutto lo scivolo, il ravvedimento operoso eccetera che c'è stato, non sarà più possibile divenire a un patto, a un patteggiamento basso con l'erario. Le sanzioni possono arrivare al 480% del capitale, quindi 5 volte tanto. Tu hai 10 milioni, ti scopriranno tra 5 anni, tra 7 anni, rischi di pagare 48 milioni su questo, e più sanzioni interesse. Quindi sanzioni fiscali sono pesantissime. In Italia però c'è una gradualità di applicazione, una incertezza del diritto fiscale che l'ha molto annacquata. Ma sono pesanti poi il versante penale, perché con la voluntary disclosure dal 1 gennaio è entrato in vigore un reato molto pesante che non esisteva in Italia, l'autoriciclaggio. Per una decisione internazionale del Gafi, l'auto tra i reati presupposti, allora nel mondo del reato di autoriciclaggio e di riciclaggio, ci sono anche i delitti fiscali. Fino a 5 anni fa questo non succedeva. Oggi. Sì, però allora, per concludere, la domanda resta: ma se tu hai sanzioni comunque pesanti sul fronte fiscale, poi è vero che vai, fai ricorso, sappiamo la lentezza e l'incertezza e anche quante poche volte l'Agenzia delle Entrate vince i ricorsi. Però, detto questo, se tu hai sicuramente un ammontare, che perché poi un conto è dire patteggio da 48, non so quanto si possa patteggiare, ma comunque sono cifre enormi rispetto al capitale che tu hai all'estero. Per di più, in automatico, se scoperto, vai nel penale pesante, perché non è un penale leggerino. La domanda è come mai, perché di questa resistenza? Nel senso perché che si scontrano anche qui molte scuole di pensiero. C'è chi si rende conto che lo scenario internazionale, perlomeno dei paesi sicuri, quelli dell'OCSE, gli ex paradisi civilizzati, insomma, quelli sicuri, non ci sono più, allora dice: ok, faccio la mia compliance, dichiarazione di conformità, divento un cittadino virtuoso e così magari rimetto in circolo i capitali. Ma c'è anche una forte resistenza culturale che dice: scappiamo nei paesi dove non c'è lo scambio automatico. Che vuol dire Medio Oriente, i sultanati, che vuol dire paesi balcanici, che vuol dire Nord Africa. Cioè dici Dubai, Emirati. Molti si sono già spostati da quelle parti. Lì ci sono dei rischi paese, è evidente, perché alcuni sono dei regni dove esiste un sovrano e dove la legislazione potrebbe cambiare in modo drastico da un giorno all'altro. Ci sono rischi paese altrove invece, paesi balcanici, Nord Africa. Quindi diventa movimentare i capitali per tenerli nascosti al fisco, si potrà ancora fare, perché chi accetta il rischio di finire in questi paesi un po', diciamo così, non so come definirli, spregiudicati, è una scelta, insomma. Per nasconderli bisogna andare negli angoli più reconditi del mondo, ecco, diciamo. Ho capito, vedremo adesso quando e come e con che termine arriverà la proroga. Grazie intanto anche a Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore. Traffico, poi la borsa. Focus Economia. minuti, la borsa e poi Federal Reserve e l'Unione Europea, o meglio le richieste di Roma a Bruxelles. Più 0,70% Milano, più 1,70% Parigi, più 0,40% Francoforte, più 1,5% Londra, mezzo punto il Dow Jones, CNH Industrial più 3,5%, Ferragamo più 3, Saipem più 3, Jux più 2,70% come Tenaris, il 2,60% lo guadagna Mediaset, il 2,5% Moncler, il 2,30% Telecom Italia, il 2% Campari, Eni anch'essa più 2, A2A più 1,70 come Luxottica e Tod's, ma anche Snam. Cala il Monte dei Paschi del 2,70%, la Pop Milano del 2,60%, il Banco Popolare del 2,5%, UbiBank meno 1,70%, Pop Emilia Romagna meno 0,80%. Se a questo uniamo il fatto che UniCredit perde solo lo 0,40, Intesa è invariata, si capisce che il grosso delle vendite oggi si è concentrato sulle banche popolari, e quindi da un lato le banche popolari, dall'altro invece chi è andato particolarmente bene, e quindi CNH, Ferragamo e Saipem. Andrea Fontana, Radio Colle, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Vai Andrea. Sì, per quanto riguarda le banche popolari e le banche in generale, è stato un po' il giallo di questo pomeriggio su cui tutti gli operatori si sono interrogati. Oggi c'era una riunione dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e quindi diversi amministratori delegati e diversi capi azienda si sono espressi anche sul consolidamento, sulle prossime mosse degli istituti, ma non sono emerse indicazioni specifiche negative rispetto a quello che è la grande attesa del mercato, cioè la trasformazione in SPA e le operazioni di fusione. Forse proprio questo, però, una certa situazione di incertezza rispetto a queste operazioni ha consigliato qualche investitore di staccarsi un attimo dal settore, anche un po' di speculazione, perché tanto sappiamo tutti cosa capiterà il primo gennaio, però ci sta, insomma, sono è mesi che si scommette sulle aggregazioni. Invece per quello che riguarda il lusso, oggi la borsa di Shanghai e di Shenzhen hanno dato una mano, Ferragamo, Yux, Montclair. Sì, certamente questi movimenti della borsa di Shanghai hanno permesso, diciamo così, un attimo di allentare la tensione del fattore Cina. Abbiamo visto quanto è importante per questi titoli. Ieri erano arrivati dei dati di Prada positivi per alcuni aspetti, ma un po' negativi sul fronte dell'incertezza asiatica. Oggi il mercato ha dato un altro segnale di recupero per la gran parte dei titoli del lusso che hanno molto da recuperare visto la difficile estate che hanno attraversato. Allora, per quello che riguarda invece i titoli legati al settore petrolio, Saipem ma anche Eni più 2%, Tenaris che è andata bene anch'essa, eccola qua, più 2,66%, qui c'è stato un rimbalzo oggi del prezzo del petrolio, però attenzione, insomma, è sempre sotto i $50 al barile, un po' di speculazione anche qui, ma non notizie, diciamo, con la N maiuscola, è a $45,9 in rialzo del 3%. Vorrei chiudere invece su Telecom Italia, perché c'è stata anche una smentita del presidente Giuseppe Recchi, e su Mediaset, perché in qualche modo, come già anticipavamo la scorsa settimana, ci riguarda indirettamente, come sì, Radio 24. Per quanto riguarda Telecom Italia, certamente l'attenzione è quella sulle mosse di Vivendi. Ieri i giornali francesi avevano ipotizzato che Vivendi fosse al lavoro anche, diciamo così, praticamente con acquisti sul mercato, stava valutando di salire dal 15,5% la sua attuale quota fino al 20%. Oggi il presidente di Telecom ha detto che l'argomento di un Vivendi al 20% riguardo ai soci non è stato affrontato, quindi di non essere a conoscenza di questa sì. mossa, ma il mercato da tempo scommette su una Vivendi più forte e sta dando seguito agli acquisti su Telecom Italia. Per Mediaset invece un bel più 2,6% che arriva dopo le indicazioni, la firma di un accordo ieri con il gruppo Finelco, certo. Che trasmette le radio Monte Carlo, Radio 105 e Virgin Radio. Ricordiamo che Mediaset a giorni dovrebbe concludere da Mondadori l'acquisto di Radio 101 e quindi dar vita a un polo radiofonico con quattro emittenti con prospettive di raccolta pubblicità importanti. Grazie Andrea Fontana, GR24 e poi Federal Reserve e Roma-Bruxelles. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, prima di arrivare al dialogo, così, allo scambio Roma-Bruxelles, che non si concluderà certo in questi giorni, visto che la prima scadenza, prima data utile è il 15 ottobre, occupiamoci di quello che invece già sta per iniziare negli Stati Uniti e soprattutto domani avrà il suo esito, comunque vada, decisivo per i mercati, soprattutto dei paesi emergenti. Abbiamo già raccontato nei giorni scorsi che la Banca Centrale Americana, più volte detto che andrà ad alzare i tassi, la Federal Reserve andrà ad alzare i tassi di interesse perché l'economia americana è ripartita e non vuole che si surriscaldi. Piccolo problema nel frattempo, i paesi emergenti hanno iniziato a vedere un flusso di capitali da quei paesi all'area dollaro, cioè ai dollari, per cui vendita della valuta locale, che sia RMB One o Real brasiliano, per comprare dollari, perché ci si attende che i dollari renderanno di più quando aumentano i tassi di interesse di una valuta, rende di più quella valuta, ma soprattutto molti grandi gruppi di questi paesi, come spiegammo qualche giorno fa, hanno debiti espressi in dollari e mentre fatturano in valuta locale, non hanno previsto strumenti di ricopertura derivati, insomma, per garantirsi, ricoprirsi sul rischio cambio, e quindi se il dollaro si rafforzasse ulteriormente vedrebbero aumentare il valore del loro debito, a fronte invece di un fatturato che diminuirebbe in rapporto col dollaro, perché viene espresso in valuta locale. Questo è un po' il tema che spaventa i paesi emergenti, che ha fatto dire alla Banca Mondiale due giorni fa: attenzione, un aumento dei tassi è un rischio per i paesi emergenti. Oggi abbiamo visto anche Lloyd Blankfein, amministratore legato di Goldman Sachs, l'unico che è sopravvissuto forse allo scoppio della crisi del 2008, ha detto: i dati non sembrano sostenere un aumento dei tassi di interesse. E invece l'ex presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha detto: la Federal Reserve deve tirare dritto e non deve ignorare i consigli non richiesti. Una linea che, se non ricordo male, un paio di settimane fa sostenne anche il corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, Mario Platero, in collegamento con noi. Buonasera Mario. Buonasera. Vedi che ti ascolto. Ma e ti leggo. Sono molto è straordinario ed è raro, ma comunque una parte di scherzi. Tu hai sostenuto in tempi non sospetti, attenzione, quando eravamo in pieno dei crolli dei mercati asiatici, proprio alla luce anche di quello che avrebbe fatto la Federal Reserve, hai detto: no, la Fed deve andare avanti sulla sua strada, non può dare l'impressione di oscillare a seconda di quello che fa la borsa di Shenzhen o la borsa di San Paolo. Intanto vorrei capire, ho visto degli analisti spaccati a metà, 49% pensano che rialzerà i tassi, 43% dicono di no. Sì, allora, dunque io ti confermo il mio punto di vista, cioè è inutile che la Fed continui a tergiversare, ora forse alziamo, a quel punto i mercati si spaventano, vedono ogni dato in chiave di aumento o di non aumento dei tassi, i mercati salgono, scendono, soprattutto la borsa. Dal punto di vista dell'aumento, di quello che deciderà la Fed venerdì, diciamo che il mercato sconta una situazione di stabilità, cioè c'è un 30% è prezzato nel mercato, sia sui treasuries che sui tassi, sui futures, sui treasuries, sui tassi di interesse, un 30% di probabilità in realtà, da un punto di vista dei dati del mercato. Poi gli analisti ovviamente sono spaccati, proprio perché c'è ormai sempre più diffusa, devo dire, questa sensazione che, insomma, che qui la Fed, se deve aumentare questi tassi, tanto vale che aumenti, anche perché tu capisci che se li aumenta, aumenterà semplicemente di 25 punti base, dello 0,25%, passiamo da un'oscillazione tra 0 e 0,25, dallo 0,25 allo 0,50, che voglio dire resta comunque un livello bassissimo, vuol dire che se continua ad aumentare, magari non ogni 6 settimane, ma con dei ritmi anche un po' più morbidi, all'anno prossimo arriveremo a tassi dell'1, 1,5, 1,75, quindi non sono dei tassi alti, non sono dei tassi che vanno ad affossare l'economia, e qui si tratta di capire qual è la psicologia del mercato. Per questo dico, la Fed dovrebbe dare una dimostrazione di leadership e dire: sì, noi interveniamo e aumentiamo, perché questo è il momento, tanto la volatilità c'è. E poi a un certo punto i mercati capiranno e secondo me si andrà a riassorbire questa volatilità. Ecco, però il fatto, Mario, il tuo ragionamento è chiaro, devo dire che, insomma, la Fed non può essere oscillare o fluttuare a seconda di quello che fanno i mercati o le borse, però mi fa notare un ascoltatore che oltre a Lloyd Blankfein c'è anche Jamie Dimon di JP Morgan, che è sopravvissuto, è vero, i due che sono sopravvissuti alla crisi. Però quando tu vedi uno come il numero uno di Goldman Sachs, che dice attenzione Fed, i dati non sembra, e lui non è che parli a caso, non parla al bar, no, è un'indicazione no, no. forte che arriva dalle banche d'affari di Wall Street. Certo, certo, il capo economista anche di Goldman Sachs ha dato un'indicazione molto precisa, ha fatto dei riferimenti a un dato uscito oggi, una delle tante misure dell'inflazione che dimostra, sembra dimostrare almeno questo dato, che l'inflazione addirittura non solo non sta raggiungendo i livelli che la Fed vorrebbe, cioè un tasso implicito di circa il 2%, ma addirittura sta diminuendo, e quindi è inutile aumentare questi tassi in queste situazioni, cioè nel momento in cui i dati di fondo non lo giustificherebbero. Però tu hai ragione, sono le grandi banche in realtà che stanno cercando di prendere, e forse hanno dei timori anche legittimi. Ci sono dei problemi, devo dire, dall'aumento dei tassi, tu lo accennavi prima, i paesi emergenti, perché pensa che molti di questi paesi emergenti si sono indebitati in dollari, c'è stato un aumento, adesso cito a memoria, certo, ma negli ultimi anni c'è stato un aumento del 40-50% dell'indebitamento in dollari, la cifra assoluta non è enorme perché parliamo di 7-8 miliardi di dollari. Però per questi paesi che sono già colpiti da un indebolimento dei prezzi delle materie prime, dunque non esportano più in Cina come pensavano di esportare, e quindi hanno delle difficoltà di bilancio dei pagamenti, nel momento in cui si troveranno a rimborsare un servizio sul debito in dollari più elevato, ecco che le difficoltà aumentano. Sì, e prezzi delle materie prime più alti, perché la Cina ne compra di meno, ma i prezzi delle materie prime sono in dollari, e quindi se tu esporti in dollari materie prime e hai un prezzo più alto, diciamo, rischi di avere anche una domanda più bassa, perché poi sì, infatti voglio dire, cioè, la domanda comunque era in dollari dal loro punto di vista, cioè da quel punto di vista ci guadagnano, perché vendendo in dollari impatriano dollari e quindi nella valuta locale importano valuta pregiata. Però il problema è che il servizio sul debito è molto più elevato, e quindi rischierebbero alcuni di questi paesi di trovarsi in difficoltà. E quindi ecco che ci sono molte considerazioni che la Fed andrà a discutere nelle riunioni fra giovedì e venerdì. Non è soltanto ovviamente la pressione delle banche oppure il dato sull'inflazione, ci sono degli elementi macroeconomici e geoeconomici, devo dire, che sono cambiati dalla crisi di agosto in avanti. E quindi anche tu ci confermi che è massima l'incertezza, e questa volta possiamo dire che di solito diciamo come atteso dal mercato, questa volta tutto si potrà dire tranne che atteso dal mercato, perché il mercato è spaccato in due, non si attende nulla, nel senso che non sa esattamente quello che farà la Federal Reserve. Ci chiedono alcuni ascoltatori: ma cosa cambierebbe per l'Italia? Allora, ragioniamo di area euro. In primo luogo avremo sicuramente un rafforzamento del dollaro, non enorme, perché parte del mercato l'ha già scontato. Ricordatevi che solo qualche mese fa si viaggiava a quota 1,28, 1,30, siamo a 1,13, 1,11. Però poc'altro, nel senso che il tema è veramente tra Stati Uniti e esigenze interne, quindi se l'inflazione riprende a correre perché l'economia americana va bene, devi raffreddarla aumentando i tassi, e rischi per i paesi emergenti. La partita si gioca molto su questo doppio fronte. Grazie intanto a Mario Platero, in collegamento con noi da New York, da il fronte, diciamo, paesi emergenti, BRICS o ciò che ne resta, e Wall Street. Andiamo al fronte Roma-Bruxelles, ma dopo il traffico. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Focus Economia. Strutturale in questa direzione andrebbe contro i principi di sostenibilità del sistema pensionistico, che è valutato in ambito europeo come uno dei più solidi e sostenibili dell'Unione. D'altra parte, a legislazione vigente esistono già forme di flessibilità, in particolare per i soggetti con il sistema misto, con il canale vi è la flessibilità consistente nell'accedere al pensionamento anticipato con il canale indipendente dall'età anagrafica con elevata anzianità contributiva, adeguata agli incrementi di speranza di vita. Per i soggetti interamente del sistema contributivo è già previsto di fatto al 2030 circa un sistema di flessibilità che consente il ritiro dell'attività 3 anni prima rispetto ai requisiti anagrafici. Introdurre ulteriori flessibilità rispetto a quella attuale per i soggetti con il sistema misto comporterebbe oneri rilevanti, strutturali per la finanza pubblica. E questo il modo in cui non dico abbia gelato, ma sicuramente ha raffreddato qualunque molti entusiasmi il ministro Padoan sulla riforma della riforma Fornero. Ho detto no, modifiche strutturali, avete sentito, gravi oneri, pesanti oneri di carattere per i conti pubblici. Però sugli esodati il ministro ha aggiunto: il governo sta valutando un nuovo intervento, ci sono incertezze sui risparmi dell'apposito fondo. Ora, nel frattempo, mentre l'OCSE ha rialzato leggermente la stima della crescita italiana, chiedo aiuto alla mitica Adriana Ceretelli, in collegamento con noi da Bruxelles, editorialista del Sole 24 Ore, soprattutto per i temi europei. Buonasera Adriana. Buonasera. Su questa trattativa, iniziamo a parlarne prima che poi diventi una cosa, ma Renzi prima ha detto 2 giorni fa 17 miliardi, possiamo chiedere a Bruxelles fino a 17 miliardi di margine, non li chiederemo tutti. Oggi alcuni giornali riportavano i 7 miliardi, poi in parte smentiti da Palazzo Chigi. Ma questa trattativa, perché 7 miliardi, da cosa derivano questi miliardi? Derivano da una flessibilità che si è ottenuta nei nuovi accordi con Bruxelles, non posso rifare tutta la storia, però sarebbe un calcolo per cui uno 0,1% del PIL verrebbe chiesto in virtù delle riforme strutturali in corso, un altro 0,1% farebbe riferimento agli investimenti che il nostro paese dovrebbe fare il prossimo anno. Sono tutte percentuali per togliere questi investimenti, questi soldi dal calcolo del deficit. E poi queste due, diciamo, giustificazioni sono previste nelle clausole dei trattati. Poi c'è un altro 0,2% che viene definito politico, e cioè trattativa diretta. Ora, uno 0,4 vorrebbe dire circa 7 miliardi di euro di flessibilità. C'è un silenzio da parte europea. Sono 7 miliardi che servono per coprire quanto non arriverà dalla spending review, ma 3 più 7 arriva a coprire 10 miliardi su 27 che verrà la manovra. Ora, a Bruxelles che clima si respira? Cioè, vogliono vedere la manovra, oppure dicono sì, lo 0,4 ci potete stare, non il punto percentuale? A Bruxelles sanno che dall'Italia ogni anno, quando si è in prossimità della presentazione del patto di stabilità, scoppiano queste polemiche, questi fuochi di paglia su presunte concessioni che sarebbero state ottenute. Ora, trattativa ovviamente è in corso ed è in corso da settimane, come è normale che sia quando si presenta una legge di stabilità, e non le fa solo l'Italia naturalmente, e naturalmente si cerca di sfruttare i famosi margini di flessibilità che erano stati annunciati quasi subito dall'entrata in vigore della Commissione Juncker. Però da qui a dire, a dare i numeri, nel senso proprio del termine, nel senso 7, 10, 17, eccetera, è un passo azzardato, nel senso che non risulta che la trattativa sia chiusa. Prima bisognerà presentare il documento a Bruxelles, verrà analizzato e sulla base della valutazione che sarà fatta verranno concessi più o meno larghi margini di flessibilità. Non ci dimentichiamo che adesso si sta studiando addirittura un po' di flessibilità, non è ancora né acquisita, è semplicemente allo studio, per i maggiori costi che deriveranno dall'arrivo dei rifugiati, dei migranti. Certo. Insomma, diciamo che il clima non è un clima di chiusura, è un clima di cauta apertura, però senza andare a a immaginare che concederanno dei margini miracolosi. Questo no, anche perché non bisogna dimenticare la durezza con cui è stata trattata la Grecia e gli altri paesi. Quindi, insomma, oggi il realismo induce a pensare. Dimmi. oggi diciamo il realismo economico, cioè il fatto che questa economia, nonostante il quantitative easing, nonostante i bassi costi del petrolio, il basso euro, eccetera, non va più di tanto. Cioè, se noi pensiamo gli Stati Uniti corrono, noi siamo sempre, sì, certo, migliora un pochino, ma siamo sempre 1,5, parlo di Europa, 1,6. Cioè sono sempre, la Germania avrebbe dovuto correre oltre il 2, si fermerà al 2, voglio dire, ma siamo su tassi bassi, quindi la flessibilità ha un senso. Ecco, a questo proposito, Adriana, in effetti però l'anno scorso Palazzo Chigi e il Tesoro strapparono a Bruxelles un bonus, chiamiamolo così, un margine dello 0,4% del PIL, appunto 7 miliardi, accordato su base triennale, quindi uno potrebbe dire beh, è valida anche per il 2016. Secondo aspetto, vorrei una risposta unica, potrebbe essere che alla luce della considerazione politica che stavi facendo, a noi farà gioco la situazione francese, che è ben distante dal deficit promesso, ha un PIL che è cresciuto nulla, cioè zero, e quindi insomma, vista anche la situazione, il vero problema sarà la Francia e l'Italia passerà in secondo piano? No, io credo che tutto faccia brodo, tutti i problemi che ci circondano faranno brodo e ci aiuteranno, però sulla Francia non bisogna mai dimenticare che la Francia è in una situazione speciale, ha una speciale protezione da parte della Germania, proprio perché la Francia, diciamo, la Germania ha bisogno della Francia. Qualunque cosa faccia. Adesso la Francia sta facendo qualcosina, non un granché, noi stiamo facendo di più, ma naturalmente nel nostro interesse fare di più perché soltanto così recupereremo crescita. E io penso che ci sia un'atmosfera favorevole a premiare chi fa le riforme, chi accelera, chi naturalmente le fa sul serio, non le annuncia, ma le fa sul serio. Quindi sicuramente ci può essere, però da qui a dire che ce l'abbiamo già in tasca io andrei cauta, perché appunto c'è un negoziato ed è un negoziato generale, non è soltanto bilaterale, cioè non si può concedere all'Italia molto più di quanto sarà concesso a un altro paese, perché sennò ovviamente ci sarebbe una spirale di richieste eccetera. Quindi sarà fatto sulla base della valutazione del paese e sulla base della situazione generale europea, come è logico che sia, con un po' più di buonsenso e di meno diciamo di meno rigore ideologico di quanto è stato fatto nel recente passato. Sì, diciamo che le tensioni sulla Grecia, ricordo ieri il vice premier tedesco che ha detto pesa, le tensioni sui migranti, scusatemi, ha detto il vice premier tedesco, rischiano di mettere in crisi l'Europa più della vicenda greca e dell'attacco all'euro. Il fatto che la Francia stessa non se la passi bene, che non sia aria per mettere ulteriori tensioni e rigidità, sono tutti elementi compositi ma che giocano a favore dell'Italia. Da lì a dire che potremmo usare fino al punto percentuale mi sembra troppo, come ha detto il Premier due giorni fa. Già la cifra dei 7 miliardi onestamente sembra più realistica, ma fai bene a ricordare che nulla è stato deciso e non abbiamo nulla in tasca, e per non prenderlo in tasca è meglio non pensare ad avere qualcosa già in tasca. Grazie ad Adriana Ceretelli in collegamento con me da Bruxelles. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.